Progress, quando la tecnologia diventa per tutti. In Africa sono i cellulari che hanno cambiato la telefonia e la stanno portando a tutti. E ci sono casi molto interessanti di questa rivoluzione. Adesso siamo qui su una barca da pesca a largo delle coste del Ghana. Fino a qualche anno fa, dove finiva il pesce pescato? Ecco, lo chiediamo ad Angela Comizzo, che per un'organizzazione non governativa italiana ha studiato questo problema. La distribuzione del pescato è sempre stata critica qui in Africa. Questo perché a terra, nei mercati, mancano completamente infrastrutture di servizio. I pescatori allora vanno in mare, prendono i pesci, ma poi si dirigono a caso, cosicché alcuni mercati sono saturi di pesce, mentre altri non ne hanno affatto. E questo accade perché non hanno informazioni? Certo, i mercati non comunicano con le barche. Ma le cose negli ultimi tempi stanno cambiando, e anche velocemente, perché con i cellulari è facile avere qualcuno a terra che dia informazioni. Il sistema di telefonia cellulare qui è molto più semplice ed economico. Figuratevi che la gente adesso lo usa anche per comunicare con la propria banca, che ha sede solo nella capitale. Progress vi aspetta domani alle 18:30 su Radio 24, in collaborazione con Ford.